Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Il suo nome, Nürburgring, riporta alla memoria uno dei giorni più drammatici della Formula 1, il 1 agosto del 1976, il giorno in cui il campione della Ferrari, Niki Lauda, rischiò la vita nel rogo causato da un terribile incidente. Ma il circuito tedesco che si snoda intorno al castello di Nürburgring, nel land del Renania-Palatinato, è luogo anche di imprese epiche nel mondo dei motori. E allora, nell'annata in cui la Ferrari sembra poter tornare a competere con la Mercedes per il mondiale di Formula 1, gli dei dello sport ci hanno suggerito di rivivere con voi due grandi trionfi italiani proprio in Germania, proprio al Nürburgring. E allora scaldiamo i motori e portiamoci sulla linea di partenza del Gran Premio di Germania al Nürburgring il 1 luglio del 1935. Ma chi è quel matto lì? Ha già doppiato tutti. Ha le tazze nuvolari. Lui sbanda, ma non alza mai il piede dell'acceleratore. Così in curva, invece di rallentare, aumenta la velocità. Sì. Ne fa proprio di tutti i colori. Sbanda. Enzo Ferrari. Nuvolari, come sta? Piacere di averti conosciuto. Rivali, amici, poi ancora divisi, poi di nuovo insieme. Quel primo luglio del 35 Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari, il mantovano volante, forse il più grande pilota di sempre, sono fianco a fianco nella sfida Mercedes e Auto Union, le auto teutoniche pronte a trionfare sul circuito di casa, davanti a 250.000 spettatori e ai gerarchi nazisti che siedono nella tribuna d'onore. Ferrari è già a capo dell'omonima scuderia, che gestisce vetture Alfa Romeo, una delle quali è guidata proprio da Nuvolari, campione già affermato, che riesce con abilità a strappare un super ingaggio agli organizzatori tedeschi. Tutto è pronto per la gara, su un circuito già allora leggendario, come ci racconta Gianni Cancellieri, storico dell'automobilismo e profondo conoscitore della leggenda di Nivola. Sembrava una definizione che fu data ai tempi in cui fu realizzato, un gigante che avesse camminato in mezzo alle colline dell'Eifel facendo con i suoi piedoni delle ondulazioni continue e poi si fosse stata tracciata una strada. Sì, erano appunto la Nordschleife dove correvano, l'anello nord aveva 135 curve che Tassio chiamava risorse e quindi erano tante. Lui aveva già vinto lì la Eifel Renne nel 31 e quindi era insomma, lo conosceva molto bene, si era sempre piazzato bene, distinto bene anche lì nelle prove, sia pur brevi, ha fatto il miglior tempo a parità di sono tempi ufficiosi perché non erano cronometrati ufficialmente, ma fece lo stesso tempo di Rosemeyer con l'Auto Union però si partiva con schieramenti per sorteggio, quindi non era ancora generalizzata la prassi di partire in base in ordine appunto ai tempi realizzati in prova. Lui partì lo stesso al centro della prima fila perché fu sorteggiato per partire in prima fila. Il boato della folla e il rombo dei motori sono un tutt'uno col segnale del via. Per Nuvolari si fa subito dura. Parte e viene superato dalla Mercedes di Caracciola, assieme al quale rimane primo e secondo, staccando tutti gli altri, andavano tutti e due fortissimo, Nuvolari benché con una macchina meno potente per uscire dal vago. Allora le cilindrate della P3 dell'Alfa Romeo, la cilindrata era di 3165, aveva 265 cavalli e faceva circa 275 km all'ora. Le Mercedes, che erano 5, avevano una cilindrata leggermente superiore, 3360, ma 354 cavalli. Non parliamo delle Auto Union che avevano 6000 di cilindrata e 520 cavalli, quindi lui si batteva contro veramente delle forze superiori. Rimane attaccato a Caracciola per una decina di 9 giri, dopodiché ha una sbandata o un testa coda, insomma, una curva e scala in sesta posizione, si fa sorpassare. poi recupera a suon di primati sul giro, insomma molto, andando molto forte, e ritorna, addirittura passa in testa, vi resta per un paio di giri verso metà gara, quando deve fermarsi per il rifornimento. Giro dopo giro i colpi di scena e gli imprevisti si nascondono dietro ogni curva. Succede che c'è qualche cosa che non funziona al box della scuderia Ferrari. Il carburante che schizza fuori dal serbatoio non si perde molto tempo, lui prende un distacco di 40 secondi, ritorna di nuovo sesto in classifica, riparte, comincia a mangiare tutti quanti, perché lì, anche lì comincia a battere primati sul giro, come fece Fangio nel 57 in quella famosa corsa con la Maserati, e arriva secondo a tre giri dalla fine, è attaccato a Von Brauchis, che è l'ultimo delle Mercedes che è rimasto appunto al comando della corsa. Le ultime tre tornate sono quelle che fanno entrare Nuvolari nella leggenda, racconta ancora Cancellieri. In quei tre giri famosi, ultimi, perché erano 22, si facevano 22 giri, Von Brauchis, per rimanere in testa, si mangia le gomme. E all'ultimo giro, a 9 chilometri circa dall'arrivo, Tazio lo passa come un fulmine e va a vincere e a far suonare la marcia reale, perché non c'era Fratelli d'Italia allora. I cinegiornali celebrano il trionfo. Il Gran Premio di Germania del 35 è la corsa a capolavoro di Nuvolari. Alla partenza scattano in testa tre Mercedes. La gara sembra diventare una noiosa parata tedesca, quando una piccola Alfa riesce a inserirsi nel gruppo di testa. Tra Von Brauchit e Caracciola c'è Nuvolari. È il Nuvolari delle imprese disperate. Caracciola riesce a sorpassarlo, ma giunge ai box senza gomme. Il gesto di Neubauer è abbastanza eloquente, dinanzi a un Nuvolari scatenato che si prende una delle più belle soddisfazioni della sua carriera. Con un'impresa epica, il mantovano volante rovescia stereotipi ed esalta genialità e creatività italiane. L'idolo anche della cultura imperante all'epoca, insomma, è il piccolo italiano che batte, cioè il Davide che batte i Golia stranieri, e che insomma onora il paese. In ogni caso onora il nostro sport e la nostra tecnica, anche perché un Alfa Romeo come quella di cui Ferrari ebbe a dire che era stata scandalosamente modificata, maggiorata, lavorata sugli assetti, tutto quanto, per tenere testa ad avversari comunque non facilmente battibili, proprio no. Questo è il trionfo di Tazio Nuvolari al Nürburgring nel 1935. Lo analizziamo con un ex pilota che ha vissuto da vicino, guidando la Ferrari in Formula 1, il mito di Nuvolari. Ivan Capelli, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Ivan, tu che nell'84 da giovane pilota vincesti proprio il premio Nuvolari come giovane promessa italiana emergente, è stato davvero il mantovano il più grande di tutti i tempi? Beh, ogni pilota è figlio della propria epoca. Questo te lo posso dire perché io ho guidato proprio una Alfa Romeo P3, macchina del 1934, con il cui il commendator Ferrari si era iscritto per la prima volta al Mondiale di Formula 1 come scuderia Ferrari. E quando mi sono seduto al volante di quella vettura nei 60 anni festeggiati alcuni tempo fa a Maranello, avevo questo volante enorme, e tutti si ricordano queste macchine particolari di quel periodo, questo volante enorme, e mi chiedevo come mai ci fosse un volante di quelle dimensioni. Beh, per il peso della vettura e per far riuscire appunto a farla girare, e per lo sforzo che si doveva fare al volante, c'era bisogno di una dimensione così grande per poter riuscire appunto a raggiungere quella manovra. E da lì ho capito che quei piloti, quando si sedevano su quelle vetture, rischiavano la vita nel vero senso della parola per le medie che facevano di quel periodo con quei sistemi di sicurezza. Peraltro Nuvolari, avendo una struttura fisica, e ce lo ricordiamo tutti, molto esile, che ci faceva chiedere, ancora adesso uno si chiede, io l'ho provato quella macchina, come facesse ad arrivare a quei limiti. E quando ritroveremo un pilota italiano nuovamente protagonista in Formula 1? Questa è una domanda da diciamo così, 10 milioni di euro, nel senso che sono quelli che servono per poter fare un percorso per un pilota oggi che si voglia affacciare ai go-kart, che possa passare poi alle formule addestrative per arrivare poi ai limiti della Formula 1, eventualmente con la GP2 o altre formule che sono molto vicine come potenza, e avere una chance. Questo, diciamo così, è il budget da pensare per un percorso lineare oggi. Abbiamo dei talenti, questo sì, Marcello adesso in GP2, abbiamo Fuoco che è un altro ragazzo che va fortissimo in Formula 3 e altri stanno facendo questo percorso nelle formule minori. Abbiamo bisogno di appunto un rappresentante che riesca a fare il salto di qualità e ricreare anche quel mito appunto che Tazio Nuvolari, da noi giovani quando abbiamo iniziato in go-kart, poteva ancora darci così, l'idea di poter arrivare. Ma uno fra tutti, per esempio nel mio periodo, e mi piace ricordarlo, è stato Michele Alboreto, che ha iniziato un suo percorso con la Formula Monza all'autodromo di Monza, che poi è arrivato vincente alla Formula 3 europea, che ha scalato tutte le varie formule per poi rimanere stabilmente in Formula 1 e passare 5 anni a Maranello con il commendatore Ferrari ancora presente, che ovviamente gli dava l'opportunità di guidare la rossa. Questo i ragazzi di oggi dovrebbero tenerlo a mente e averlo come obiettivo. E allora continuiamo a cercare, gli esempi non ci mancano, da Tazio Nuvolari a Michele Alboreto e anche, perché no, giusto dirlo, a Ivan Capelli. Grazie Ivan per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Qualche istante di pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. È il 24 aprile 1965, quando proprio sul leggendario circuito del Nürburgring in Germania, un 22enne centauro bergamasco conquista il primo successo nella classe 350 di una carriera che lo porterà a vincere altri 122 Gran Premi e 15 titoli mondiali di motociclismo. Beh, è proprio oggi che dedichiamo la puntata alla storia di questa magica e tremenda pista tedesca, non potevamo non avere ospite ad Olimpia il grande Giacomo Agostini. Benvenuto ad Olimpia, Agostini. Grazie e buongiorno a tutti voi. Signor Agostini, sottolineiamo subito che il circuito su cui lei vinse il suo primo Gran Premio era ben diverso dall'altro Nürburgring, quello su cui correvano le auto, vero? Beh, era il piccolo, era io poi ho corso anche sul lungo, questo era lungo 8 km e mezzo. E sempre in mezzo alla foresta, sali scendi, discesa salita, era un po' la miniatura del grande, ecco, come c'era, e poi era abbastanza stretto, era abbastanza pericoloso anche, insomma, ai tempi purtroppo le piste erano così, in parte c'erano alberi, muri, insomma c'era di tutto. Emozioni e sensazioni davvero particolari quelle di quel fine settimana, immagino. Sì, è stata un weekend particolare, fantastico, con tante emozioni, perché diciamo debuttavo con la MV Agusta, debuttavo una gara di campionato del mondo con tutti i grandi campioni, quindi avevo un'emozione, una soggezione di tutti, quindi sì, mi trovavo così, il bambino di Lover in mezzo a tutti questi grandi campioni, però insomma alla fine mi sono reso conto anch'io, ho dimostrato che effettivamente forse questo era il mio mestiere, perché prima gara ho vinto subito, è stata una cosa meravigliosa, insomma. Un predestinato, direi. Tra l'altro, ben poco incoraggiato dai suoi genitori nell'intraprendere la carriera motociclistica, giusto? No, assolutamente, anzi, i miei genitori non volevano, dicevano appunto che non sono pericoloso, anche se effettivamente non avevano torto, soprattutto a quei tempi quando le piste erano ancora molto pericolose, quando non c'erano tante protezioni, non c'era il casco integrale, non c'era la tuta con tutta la protezione di oggi, non c'era l'airbag, quindi purtroppo si perdevano, cioè tanta gente quando cadeva moriva, e quindi anche per un genitore era difficile dare il consenso al figlio di correre, insomma. Gran talento, dicevamo, ma anche meticolosità e cura di ogni dettaglio per arrivare al successo. Sentiamo insieme, signor Agostini, quest'audio d'epoca. La giornata di Agostini non è fatta soltanto di giri di pista a 200 all'ora. Eccolo in palestra alle prese con il judo. Come mai? Faccio lo judo per imparare a cadere. Preparazione ginnica, dieta particolare e controllata, vita ritirata e tranquilla, sono i segreti di una carriera che ha fatto di Agostini il più grande centauro di tutti i tempi, entrato nella leggenda sportiva. Così, con quelle mani forti, ha artigliato vittorie a centinaia sulle piste magiche di tutto il mondo, teatro delle sue più belle imprese. I successi, abbiamo visto, Agostini non li lascia però al caso, al suo estro di artista delle due ruote. Per questo ancora una volta è stato premiato come il super campionissimo. Insomma, signor Agostini, persino il judo nella sua preparazione atletica, eh? Beh, io ho sempre creduto, nel senso che questo era, a parte il mio sport, l'amore per le due ruote, per me poi è diventato un mestiere, quindi una professione seria, pericolosa, quindi dovevo fare di tutto per essere sempre pronto, allenato e con i riflessi sempre allenati per poter appunto partecipare a queste gare importanti e queste gare che all'epoca appunto, come detto prima, abbastanza pericolose, quindi ho sempre creduto nella preparazione fisica. Io poi sono stato uno dei primi, perché una volta erano un po' più pionieri i nostri, cioè quelli ancora prima di me, correvano con tanta forza, con caschi così, senza guanti, insomma era più poi giustamente affinando le armi, è giusto che ci si prepari al 100% in tutti i settori, insomma, sia nella preparazione fisica che nel mangiare, cioè la dieta, tenersi, insomma fare le cose da professionista, ecco. Grande attenzione poi anche allo studio del mezzo, della moto e dei circuiti. Se non sbaglio, conserva ancora decine di block notice con le caratteristiche di tutte le moto e di tutte le piste. Beh, questi adesso così scherzando mi dicevo, ma però la verità erano i miei computer, era la mia telemetria. Facevo tutto appunto per avere tutto pronto, tutto al massimo, per non lasciare niente al caso, insomma. È incredibile. Torniamo a quel pomeriggio del 24 aprile al Nürburgring. Ci racconti quella vittoria? Beh, la gara è stata abbastanza così, sono stato in difficoltà durante le prove perché mi si è rotto la pompa dell'olio, quindi non avevamo ricambi perché la moto era una moto appena nata, quindi era un po' un prototipo e ne avevamo molti pezzi di ricambio, però fortunatamente la notte del venerdì i meccanici hanno lavorato tutta notte e così artigianalmente hanno costruito questo pezzo rotto e quindi sono partito in gara con tanta preoccupazione perché pensavo poi che fatto così di notte senza macchinari, senza materiali speciali si rompesse subito ancora. E invece ha tenuto e ho visto che riuscivo a stare coi primi, anzi poi sono andato in testa e insomma ho fatto una gara meravigliosa, ho vinto. La sera sono tornato in albergo e ho visto tutti quelli della Roma che il giorno prima avevo visto e avevo un po' così, siccome sentivo che ridevano mi ero sentito un po' preso in giro, un po' avevo tanta vergogna, nel senso non so cosa pensavo male, pensavo che dicessero delle cose non carine nei miei confronti. Allora la sera quando sono tornato in albergo con la coppa da vincitore, insomma camminavo in punta di piedi, ecco. Vincere su quel circuito credo equivalga a una laurea per un pilota. Beh, insomma è importante perché uno, cioè l'importanza è anche dove vinci, nel senso che se vinci in una pista facile, in una pista da quattro soldi tra virgolette, il sapore è diverso di quello dove vinci in un Nürburgring, dove hanno vinto grandi campioni prima di te, dove sono diventati campioni del mondo tante persone, tipo altri circuiti tipo Francorchamps in Belgio, famosi circuiti tipo il Tour de Stroffia all'Isola di Man, insomma sono circuiti come Monza, sono circuiti che insomma vincere Monza, vincere questi circuiti naturalmente ti dà un altro sapore, insomma. Quella coppa oggi la conserva ancora? Sì, le ho tutte, ho il mio museo in casa, quindi le ho tutte lì. Fortunatamente ne ho tante di cose speciali e questo mi fa molto mi dà molta gioia e mi fa molto piacere, insomma. Uno sguardo all'attualità, è l'anno buono per Valentino Rossi per conquistare finalmente il decimo mondiale in carriera? Ma direi che è sulla strada, poi un Valentino che ha 26 punti di vantaggio su Marquez, insomma è Valentino che li ha, nel senso che è uno che non non lascia niente al caso, uno che è difficile impensare dargli un vantaggio e poi poterlo prendere. Naturalmente ha tanti ragazzini giovani che fanno di tutto per poter conquistare il titolo. Sarà dura, perché fuori di dubbio il campionato è ancora lungo, però insomma Valentino con 26 punti di vantaggio dopo 4 corse direi che non è male. Le chiedo ancora, signor Agostini, guardando in pista i campioni di oggi, ogni tanto le viene un po' di nostalgia? Ma oddio, ogni tanto mi viene un po' di nostalgia pensando alle cose belle, alle gioie che ho avuto, e invidio un po' questi piloti che oggi fanno quello che facevo io e so che gioie cosa provano quando sono sul podio. Certo, qualche volta dico, ma perché non c'è un bottone che tolgo 40 anni e riprendo? Per fortuna loro non c'è. insomma sarebbe una bella battaglia. Giacomo Agostini, grazie per la simpatia e per essere stato oggi nostro ospite qui ad Olimpia. Grazie a tutti voi. Per l'appuntamento di oggi con Olimpia è tutto, un grazie ad Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast sul nostro sito radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio come sempre a tutti i convocati weekend. Olimpia torna domenica prossima sempre alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.